Oggi, ancora nessun colpevole. Menti ispirato al delitto di Garlasco. E quindi? E quindi cosa? Senta, la smetta di ripetere quello che dico io e si concentri. Che cosa ha visto? Gliel'ho già detto. Lo so che me l'ha già detto, ma me lo deve ripetere. Non li guarda mai i polizieschi Manfredini? Non lo sa come funzionano gli interrogatori? No, non lo so. Come funzionano? Ma lei cosa credeva? Di venire qua a raccontarci la sua verità una volta sola e poi di andarsene a casa? Si rende conto della gravità delle sue affermazioni? Certo che me ne rendo conto. E sono consapevole anche di quello che rischio. Per questo mi aspettavo un pochino più di cosa, Manfredini? Un pochino più di rispetto? Beh sì, di sicuro non certo questo quarto grado. Posso fare una telefonata? No, non può. Non posso? Come non posso? Sono un libero cittadino, cazzo. Allora perché me lo chiede, Manfredini? Se lei è convinto di essere un libero cittadino e di poter fare quella telefonata, perché me lo chiede? Perché non la fa e basta? Lei mi è ostile. Io le sono ostile, lei mi è ostile. Ostile, lei non mi crede. Manfredini, ricominciamo da capo. Torniamo a quel 13 agosto del 2007. Che ci faceva Garlasco? Passeggiavo. Passeggiava. Era andato a Garlasco in villeggiatura? Manfredini, 13 agosto. La gente in agosto va a Riccione, non nella Lomellina. Ripeto, che ci faceva Garlasco? Sono un appassionato di architettura religiosa. Sì, come no. Questo ce l'ho già detto 10 volte. Il santuario della Madonna di Bozzola. È lei che mi continua a chiedere le stesse cose. Ok, ha ragione, sono io che le continuo a chiedere le stesse cose. Passa davanti alla casa di Chiara Poggi e cosa vede? Un uomo. Un uomo giovane? Ancora? No, santi Dio, un uomo vecchio, un cinquantenne. Stia attento, Manfredini, ho 49 anni. Bene, un adolescente sulla cinquantina, allora va meglio? L'assassino di Chiara Poggi? Secondo me sì. Secondo lei sì. Chi è che adesso ripete le cose? Manfredini, in casa Poggi non ci sono tracce che facciano pensare che questo ipotetico assassino cinquantenne sia responsabile dell'omicidio. Vero? Ma a quanto pare non ci sono nemmeno tracce che riconducono a questa responsabilità ad Alberto Stasi. Diversamente non sarebbe stato scarcerato, o no? Non fa una grinza. Non fa una grinza, ma come parla? A chi voleva telefonare, Manfredini? A mia moglie, per dirle cosa, di buttare giù la pasta? No. Per ricordarle di pagare il bollo. Il bollo. La sa una cosa, Manfredini? Lei è veramente multitasking. Viene qui a risolvere uno dei casi più intricati degli ultimi 10 anni, ma riesce anche nel frattempo a preoccuparsi del bollo in scadenza. Un po' la invidio, mi creda. Sono una persona organizzata, tutto qua. E quest'uomo era, leggo dalla sua deposizione, alto, capelli scuri, giacca nera, jeans. Se non fosse per l'età avremmo già la colpevole, Dylan Dog. Me ne vado. Mi creda, non le conviene. Lei mi sta prendendo in giro e si sta facendo tardi. Me ne vado. Forse potrei trattenerla, Manfredini. Cioè arrestarmi? Cioè capire perché viene qui a raccontarmi questa marea di stronzate dopo 4 anni e mezzo. Lei sapeva una cosa fondamentale per lo svolgimento dell'indagine e non l'ha raccontata a nessuno. Perché ora sì? Perché 10 minuti dopo aver visto quell'uomo, e gliel'ho già detto, sono stato investito da una macchina e ho perso la memoria. Che cosa? Amnesia post-traumatica, non ricordavo nulla. E adesso sì, invece. E adesso sì, invece, ricordo tutto perfettamente, come se fossi ancora là, in questo momento. Si alza. Bene, Manfredini, per adesso è tutto. Per quanto mi riguarda, lei può anche andare. Davvero? Sì, davvero. Grazie, per la sua preziosa informazione. Questo getta una luce tutta nuova sulle indagini. Non faremo parola ai giornali, ma mi creda, da domani 10 dei miei migliori uomini si occuperanno di trovare il fantomatico cinquantenne con i jeans e la giacca nera. Dylan Dog. Dylan Dog, già. Adesso però è lei a dirlo. Sì, è vero. Adesso sono io. Mi scusi. Lo accompagna alla porta. Mi raccomando, Manfredini, di quanto ci siamo detto, non ne faccia parola con nessuno. No, certo, non si preoccupi. Rispetterò, come dite voi, il segreto istruttorio. Bravo, Manfredini, così si fa. Comandante, prima di andare però, un'ultima cosa. Mi dica pure, Manfredini, la sto ascoltando. Secondo lei mi ucciderà? Ma chi? Il vero colpevole mi ucciderà? Lo abbraccia. Non si preoccupi, Manfredini. Lei è in una botte di ferro. La deposizione di Claudio Manfredini viene strappata e gettata nel cestino quel pomeriggio stesso. Morirà 20 giorni dopo, annegato. Un incidente, probabilmente, archiviato come tale. Non essendoci verbale, nessun collegamento verrà mai fatto tra le due cose. Alessandro Berselli, in libreria con Anni Zero. ARPANET Editore, 208 pagine, 14 euro. La meta di chi viaggia è Radio 24. Ogni sabato alle 12.55 e domenica alle 22.50. Taccuino di viaggio, la rubrica di Radio 24 che vi racconta tutto ciò che c'è da vedere, conoscere e scoprire in alcune delle località più belle del mondo. Taccuino di viaggio, ogni sabato alle 12.55 e la domenica alle 22.50. Info su radio24.it. King Holidays e TAP Portugal vi invitano sabato 9 giugno a scoprire i segreti del Brasile. Il nostro pianeta esige un futuro diverso, con un'economia basata su strutture più efficienti. Possiamo far convivere la tecnologia e l'ambiente. Come mezzo per l'ecologia riguarda ogni singolo uomo. Perché e deve essere considerata come un obiettivo comune. Dall'incontro tra economia ed ecologia nasce Audi A3 Sportback Young Edition, che riduce le emissioni e anche il prezzo. Ora disponibile a partire da 19.950 euro. Offerta valida grazie al contributo dei concessionari aderenti. Precarietà, disoccupazione, assenza di prospettive e immigrazione rendono i giovani l'anello debole della crisi. L'Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste, accanto ai progetti culturali e di solidarietà in Italia e all'estero, si impegna a sostenere iniziative a favore dei giovani. Investiamo sui giovani, sosteniamo i loro progetti e apriamoci al futuro. 8 per 1000 ai Valdesi, 100% alla solidarietà e alla cultura. Campagna 8 per 1000 delle Chiese Valdesi e Metodiste. www.8per1000valdese.org. Un po' di qui e un po' di là sono arrivati i Barba Papà. Sdraiette, marsupi, seggioloni e tanti accessori togli e metti, tutti firmati Foppa Pedretti. La collezione Barba Papà è un'esclusiva Foppa Pedretti. Resta di stucco, non è un barbatrucco. www.foppapedretti.it. Già qui? Ma come hai fatto? Per me ha corso Credit Reforma. Non devi più correre dietro il tuo denaro. Ci pensa Credit Reforma. È il più veloce, sempre. Ah, ma quanto ha vinto? Ha vinto la fiducia di 170.000 clienti perché il gruppo Credit Reforma è la prima società di recupero crediti del mondo con 533 milioni di euro di fatturato. Con Credit Reforma, il vostro credito è sempre al primo posto. 800-425-325 o creditreforma.it. La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Ieri sera leggeva Rudy la storia di Winnie Pooh e del vaso di miele. Sai che successe? Ci ficcò il naso una volta di troppo e ci restò appiccicato. Forse dovevi leggergli Pinocchio. Tu parlavi di raddrizzare la Blue Star e non di capovolgerla e vuotarla. E questo usando me. Sei cieco e stai camminando senza bastone. E vai a sbattere contro le porte che si aprono col denaro. Ma che bisogno hai di smontare la compagnia? Perché è smontabile, va bene. Ci ho dato un'altra occhiata e ho deciso di cambiare idea. Se quella gente perde il lavoro, non saprà dove andare. Mio padre ha lavorato là dentro per 24 anni. Gli ho dato la mia parola. È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. E allora questa è la massima tratta da Wall Street 1987, con la quale il grande finanziere d'assalto Gordon Gekko liquidava la questione etica legata all'economia. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è Radio 24, siamo a Trento in diretta dal Festival Economia con una puntata speciale della Rosa Purpurea dedicata tutta proprio all'incrocio tra cinema e economia, come il cinema, la settima arte, ha da sempre, scopriremo durante questa puntata, raccontato il fervore, le crisi, i rimedi, i tentativi di uscirne dell'economia, appunto. Ed è un periodo ovviamente particolarmente importante per questo, perché la crisi che stiamo vivendo a livello planetario e che sta avendo momenti anche di grossa drammaticità sociale ci porta proprio a guardarci indietro, a guardare a cosa il cinema ha fatto in questi 100 e rotti anni di storia, per raccontare appunto non solo le crisi ma anche come l'economia alle spalle, dietro le quinte della nostra vita quotidiana forma e forgia molto spesso il nostro futuro. Ci sono sicuramente film, fra virgolette, economici, comunque sull'economia, sin dai tempi del muto. Ricordiamo ovviamente il grande Charlie Chaplin con il suo Tempi moderni, che per primo raccontava il fordismo, raccontava la fabbrica, l'uomo e la macchina, il rapporto che si sarebbe di lì in poi andato prima a implementare e poi ad incrinare. Poi furono i tempi di furore di John Ford, che raccontò invece l'America della Grande Depressione, insomma l'economia non è sicuramente una scoperta recente del cinema, ma Wall Street, il film con il quale vi abbiamo aperto la puntata qui speciale da Trento e di cui fra poco vi faremo sentire un altro piccolo brano, è stato sicuramente un film che ha segnato un'epoca, ha segnato un momento di rottura, perché in quel 1987 raccontare la Wall Street, la New York degli anni 80, quella dello yuppismo, quella dei finanzieri rampanti che cominciavano a perdere l'etica, è stato appunto un momento di svolta, uno snodo epocale, quello in cui l'economia si svestiva anche del manto etico che gli aveva cucito addosso Keynes, se volete, e cominciava a guardare solo un obiettivo, quello di far soldi, di farli alla svelta, di farli subito e di cercare di perderne il meno possibile, anche se in questo tentativo si portava dietro sicuramente anche rovinose cadute come quelle che vengono raccontate nel film di Oliver Stone, con un cast indimenticabile che andava appunto da Michael Douglas nei panni di Gordon Gekko a Charlie Sheen, a Daryl Hannah, a Martin Sheen. Dopo quel momento il cinema ha un po' riscoperto il pathos dell'economia, perché una buona storia di finanza raccontata bene dal cinema ha sicuramente un grande effetto, perché in un certo senso il grafico del pathos di una grande storia di finanza è identico, è simile, molto simile al pathos di una grande sceneggiatura. Ci sono picchi, ci sono cali, ci sono momenti di riflessione, e questo grafico, quando si è sposato bene all'articolazione di una sceneggiatura, ha dato spesso ottimi risultati. Altro ingrediente fondamentale sono gli ottimi attori, perché chiaramente molto spesso bisogna recitare in luoghi chiusi, in unità di luogo abbastanza date, non ci sono grandi momenti di azione, ma questa azione viene praticamente sostituita da questa capacità di creare tensione, che è un po' insita nella grande vicenda economica e finanziaria. E così dopo quel 1987 l'economia ha incrociato diversi temi. Pensiamo per esempio a come ha fatto Peter Cattaneo in maniera abbastanza ironica con Full Monty al tema del reinventarsi un po' una carriera. Pensiamo al grande Risorse Umane di Laurent Canté, che metteva di fronte due generazioni, il padre operaio e il figlio manager, dove il padre operaio sostanzialmente è rassegnato al fatto che le cose in un'azienda, di fronte anche alla prospettiva di licenziamenti, vadano così perché è così che devono andare, dove invece è il figlio manager, che sulla carta dovrebbe essere quello un po' più rampante, a farsi carico anche di rivendicare invece una possibilità di un futuro diverso. E via via andando avanti, il cinema di Ken Loach, che affrontava il tema della privatizzazione, per esempio in Paul Meek e gli altri, in quel caso privatizzazioni ferroviarie, e furono quello il tema delle privatizzazioni in quel momento, il tema forte, il tema sensibile fra cinema ed economia. Addirittura un altro film di Laurent Canté, straordinario, A tempo pieno, dove un uomo perdeva il lavoro, un uomo di mezza età perdeva il lavoro, pensate quanto sia attuale questa situazione, e si inventava un lavoro che non esisteva, un lavoro totalmente inventato di nascosto dalla sua famiglia, non sopportando il peso di questa umiliazione, e via andando. Ho segnato almeno una ventina di film che hanno avuto il pregio di raccontare l'economia cogliendo quello che dell'economia era l'aspetto fondamentale di quel momento, e appunto lo yuppismo di Wall Street, le privatizzazioni di Ken Loach, la disoccupazione di mezza età di Laurent Canté, ma anche di Fernando León de Aranoa con Il lunedì al sole, lo ricorderete, con Javier Bardem del 2002. Anche l'Italia si è fatta sentire in questo senso, con la figura del tagliatore di teste, Volevo solo dormirle addosso, di Eugenio Cappuccio, con Giorgio Pasotti, figura ripresa più recentemente da George Clooney nel film che lo vedeva appunto andare avanti e indietro con grandi voli aerei per tagliare teste, salvo poi trovarsi a sua volta in difficoltà. Il film era Tra le nuvole di Jason Reitman. E poi c'è stata tutta l'epopea del call center, pensate a Fuga dal call center, a Tutta la vita davanti, ancora lì il cinema italiano che raccontava una generazione di laureati che dovevano trovarsi gioco forza a calarsi in un mestiere sicuramente poco gratificante, e tra l'altro anche spaccato di un'Italia, della società di un'Italia che era molto cambiata, figlia dei reality e del Grande Fratello più che della carriera lavorativa, fino ad arrivare ai giorni nostri. E allora è bello chiudere questa prima parte del nostro programma con la clip del sequel di Wall Street. Quasi 20 anni dopo, più di 20 anni dopo, Oliver Stone si rende conto che una parabola, quella che è cominciata con Wall Street nell'87, si è conclusa e che proprio l'uscita di galera di Gordon Gekko ce lo fa sembrare in questo momento quasi un saggio rispetto alla nuova economia rampante di oggi. Siete nella cacca fino alle orecchie. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. Prendi nota, bello. Tra un po' dovrei chiamarlo Paparino. Qualcuno mi ha ricordato, qualche sera fa, che una volta ho detto l'avidità è giusta. A quanto pare è diventata legge. Perché vedete, è l'avidità che spinge il mio amico barista a comprare 3 case che non può permettersi senza dare l'anticipo. Ed è l'avidità che spinge i vostri genitori a chiedere un mutuo di $250,000 sulla casa che ne vale 200. E con quei 50 correre al centro commerciale a comprare la TV al plasma, l'ultimo cellulare, il computer, e già che ci sono anche un SUV. E perché non anche una seconda casa, in effetti conviene. Insomma, lo sappiamo tutti che il prezzo delle case in America sale sempre, giusto? Ed è l'avidità che ha spinto il nostro governo a ridurre il tasso di interesse all'1% dopo l'11 settembre perché tornassimo tutti a fare shopping. Gordon Gekko che spiega la crisi del subprime, la crisi del 2008 in Wall Street 2, il denaro non dorme mai. Linea la viabilità, fra poco torniamo insieme con il primo ospite di questa puntata speciale, Gianni Canova, per raccontarci quello che è un po' la scelta, alcune scelte del suo libro Il manager al buio, quando il cinema racconta l'economia. Strade in diretta. La 14 Adriatica è chiusa in Puglia, tra Foggia e Cerignola. Nelle due direzioni le corsie di marcia sono invase dal fumo di un incendio divampato fuori dall'autostrada. Stesso problema, visibilità ridotta per un incendio ai margini dell'autostrada tra gli svincoli della 14 di Bari Nord e Bitonto. Si è verificato un incidente in direzione di Milano, sulla 4, la Milano-Brescia tra Capriate e Trezzo. Sul tratto urbano della 4 restano chiuse le uscite di Cormano e San Giovanni, chiusure anche sulla tangenziale nord milanese e sulla statale 36. Queste sono tra le chiusure istituite per la visita del Papa, chiusure che si protrarranno fino a stasera. Noi torniamo tra mezz'ora. La rosa purpurea. Why should I turn this bank over to anybody else? I've worked 25 years night and day to build it up, and now you're asking me to dump it in somebody's lap. Nothing doing. You could make a handsome profit on your stock. I'm not interested in profit. I'm interested in the bank, in the depositors. They're my friends. They're looking to me for protection, and I'm not walking out on them. Yes, well, how are you protecting your depositors? By making a lot of idiotic loans? Take it easy, Clark. My dear friend. That's all right. Let him go ahead. Let him speak his piece. I like it. Go on. All right, I'll speak my piece. Dixon, you've got to change your policy. What's the matter with my policy? Questa è la 1932, clip originale della Follia della Metropoli, American Madness, il titolo originale di questo film. Non abbiamo trovato clip italiane, però vi abbiamo fatto sentire lo stesso un passaggio di questo film che ha avuto un ruolo importante, un film di Frank Capra, appunto perché raccontava un po' un momento che ha qualche analogia con il nostro presente, la storia di un presidente di una banca che concede prestiti personalizzati. A un certo punto però i correntisti, dopo la notizia di alcune rapine che si sono appunto hanno avuto come oggetto questa banca, i correntisti impazziti corrono tutti a richiedere il loro denaro. Non so se vi ricorda qualcosa. Noi ne parliamo con Gianni Canova, critico cinematografico, autore del libro Il manager al buio, quando il cinema racconta l'economia, coautore del libro insieme a Salvemini, che è in collegamento con noi. Ciao Gianni. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, raccontiamo un po', ecco, proprio partiamo da qui, questo La Follia della Metropoli, 1932, 80 anni fa, e la storia raccontata ha delle incredibili analogie con la paura forse più grossa del momento, quella della gente che torna alle banche a saccheggiare i propri conti correnti. Esatto, corsi e ricorsi storici. Il film è molto interessante, come un po' tutti i film che io e Salvemini prendiamo in considerazione in questo libro, perché ti fa vedere come innanzitutto si generi il panico collettivo. Questa banca subisce un furto anche consistente ma non allarmante, ma il passaggio di bocca in bocca delle informazioni che si gonfiano, fa sì che a poco la maggior parte dei correntisti di questa banca si convinca che ci sia un rischio di fallimento imminente, per cui la mattina dopo tutti i correntisti, migliaia e migliaia di persone si presentano agli sportelli della sede centrale esigendo di poter ritirare i propri depositi. Momento di panico e il direttore della banca deve decidere in pochissimo tempo, in una condizione di stress assoluto, come far fronte alla situazione e come fronteggiare questo crollo reputazionale che ha colpito la banca in maniera così repentina. E la soluzione è una soluzione che non rivelo ai nostri ascoltatori, li rivio al film, è una soluzione per certi versi geniale che dice come sia possibile, pur in condizioni di grande e drammatica urgenza, far fronte a una crisi reputazionale di questo tipo e far invertire, se non altro, il flusso emozionale, il flusso di ricostruire in qualche modo la credibilità e la fiducia, che sono i due elementi fondamentali che il film di Capra mette a fuoco. Il cinema insegna l'economia, la racconta, la fa vedere, ti fornisce in vitro delle situazioni drammatiche e ti dà degli spunti per riflettere su come affrontare oggi situazioni analoghe. Ecco, tra l'altro non è l'unica situazione con analogia al presente, questa del film La follia della metropoli. Il bello tra l'altro di questo libro, Gianni, è proprio che si parla di film che guardando i titoli quasi penseresti non abbiano niente a che fare con il racconto dell'economia, in realtà hanno a che fare con il racconto della società contemporanea forgiata e plasmata proprio dai meccanismi economici. Si va, lo ricordiamo, da Caos Calmo a Cuore Sacro di Ozpetek, da Forrest Gump a Gran Torino e via. Però dicevamo, un'altra analogia, un'altra cosa che oggi bisogna saper fare, soprattutto se si è imprenditori, è quello di cambiare pelle, cioè di saper cambiare in corsa l'oggetto della propria produzione proprio per cercare di sopravvivere alla crisi. È quello che fanno i protagonisti di Kinky Boots. Sentiamo una clip e ne parliamo. Che ne dici? Rosso! Rosso! Rosso, Charlie Boy! Regola numero uno, rosso! È il colore del sesso! Dove? Colore delle borse dell'acqua calda, rosso! È il colore del sesso, della paura, del pericolo e dei cartelli che dicono è vietato l'ingresso. Tutte le cose che preferisco nella vita! Chi è quello? Il Pante è là dentro con la tua nuova ragazza. Ma sono comodi. Comodi? Il sesso non può essere comodo! Allora il problema non è solo mio. Mamma! Io non so che cosa tu sia abituato a fare qui, Charlie Boy, ma da ora tu farai del sesso. 80 centimetri di irresistibile, magnifico sesso. Guarda il tacco! Ma insomma... Sì, non si spezza, è quello che volevi. No, certo. Se vuol dire che devo andare in giro conciata come una contadina ucraina, no! Sempre meglio che sculettare come... No, zitto! Cerca di portare un po' più di rispetto al tuo mercato di nicchia, Charlie Boy. Anzi, chiediamolo alle tue ragazze. No! Ragazze, vi mettereste un catafalco così per uscire? No! Scommetto che a te stare per bene, tesoro. Il catafalco simile, come avete sentito, la via d'uscita che... come dire, viene tratteggiata dalla prosopopea di Chiwetel Ejiofor nei panni della drag queen protagonista del film, è proprio quello di una azienda produttrice di scarpe molto, molto inglesi, molto sobrie, molto classiche, che a un certo punto però non vanno più molto di moda. E quindi la possibilità, la via d'uscita, la scorciatoia, la possibilità di uscire da questa crisi è data proprio dall'idea che viene a questa drag queen di fabbricare scarpe con tacchi anche a spillo che riescano a essere indossati da uomini che amano travestirsi da donna. Gianni, è una situazione forse estrema, però insomma di queste situazioni, con queste situazioni si salvano anche le aziende. Sì, è una metafora a suo modo illuminante, perché questo film racconta appunto di una illustre, nobilissima azienda che produce scarpe british molto classiche, di quelle che per tutto il Novecento sono state una garanzia economica. Quando il vecchio fondatore, l'imprenditore muore, la fabbrica viene ereditata dal figlio, il figlio si rende conto che quel tipo di prodotto non va più, i magazzini sono pieni di scarpe invendute, i bilanci scricchiolano e il nostro neo imprenditore si trova a dover improvvisamente gestire, come dire, un cambio di produzione, un rinnovamento aziendale, e finché se ne sta chiuso dentro il suo ufficio, pensa e ripensa, non riesce a saltare fuori dal paradigma che era quello di suo padre e non riesce a trovare una via d'uscita, la trova lateralizzando, cioè uscendo fuori per il mondo, incontrando personaggi diversi dagli amministratori con cui era solito relazionarsi, incontrando questa drag queen che gli suggerisce un salto dentro un'altra produzione di nicchia, che è quella che farà poi la fortuna dell'azienda, la quale si metterà appunto a produrre gli stivali con questi 80 centimetri di puro sesso che verranno presentati, il finale del film si svolge a Milano durante la settimana della moda e si conclude appunto con il grande successo di questa nuova produzione di nicchia, ottenuta appunto lateralizzando, cioè spostandosi e cercando di cambiare paradigma mentale. Ancora una volta un film attraverso un racconto fornisce uno stimolo, uno spunto, una suggestione, un'idea per affrontare in un modo efficace una delle tante situazioni di crisi che oggi ci troviamo a dover affrontare. E lo fa anche in chiave di commedia, così come anche un altro film che il nostro Gianni Canova ha scelto, cioè I soldi degli altri. Qui siamo nel 91, film di Norman Jewison, Gregory Peck, Danny DeVito nel cast. Anche qui la chiave è quella della commedia, che si sposa molto a raccontare questo tipo di storie. Qui la storia, forse la ricorderete, quella di un boss dell'alta finanza di Wall Street che vuole impadronirsi di una vecchia fabbrica, facendo gli interessi della maggioranza degli azionisti chiudendola subito dopo, praticamente. Allora ascoltiamo anche qui una clip, poi ne parliamo. Voglio dividere con voi alcune mie convinzioni riguardanti il voto che state per dare nella compagnia, che è anche vostra. Questa magnifica compagnia, che è sopravvissuta alla morte del suo fondatore, a numerose recessioni, alla crisi catastrofica del 29 e a due guerre mondiali, è in imminente pericolo di autodistruzione in questo giorno e in questa città dove è nata. E lì c'è lo strumento della nostra distruzione. E voglio che voi lo guardiate in tutta la sua gloria, Lawrence Garfield, l'operatore economico dell'America post-industriale che fa il dio giocando sulla pelle e sui soldi degli altri. I magnati ladri del passato almeno lasciavano qualcosa di tangibile nella loro scia, una miniera di carbone, una strada ferrata, banche. Quest'uomo non lascia niente e non costruisce niente, non crea niente e non dirige niente. Allora, avete sentito Gregory Peck in questo bel tratto di un discorso tratto appunto dal film I soldi degli altri. Gianni, un discorso che richiama la questione dell'etica produttiva, dell'etica industriale. Gregory Peck fa riferimento a questo operatore dell'America post-industriale, individuandone il pericolo perché non produce niente, e quindi contrappone in un certo senso l'economia che produce, l'economia produttiva, dall'economia che muove solamente i capitali. Assolutamente, è un discorso di alto profilo etico-sociale quello di Gregory Peck, ma è anche un discorso perdente nell'impianto narrativo del film, perché il suo antagonista, Danny DeVito, chiamato sprezzantemente il cowboy dell'alta finanza, alla fine vince, come spesso vincono i cowboy nel cinema americano, e vince dimostrando come il discorso del vecchio presidente, interpretato da Gregory Peck, sia un discorso appunto di alto profilo morale, ma incapace di fronteggiare coi buoni sentimenti la crisi economica che attanaglia l'azienda, che è un'azienda che produce fili di rame e cavi, e nel suo discorso Danny DeVito dice pensate quando è stata inventata l'automobile e tutte le aziende che producevano fruste da calesse furono destinate a chiudere, anche quelli che producevano le migliori fruste da calesse disponibili sul mercato. Nel momento in cui tu diventi obsoleto, nel momento in cui le tecnologie ti rendono superfluo, devi far fronte a questa tua obsolescenza avendo il coraggio di innovare, e non puoi limitarti a richiamare i buoni sentimenti e la pur grande storia sociale che caratterizza la tua azienda, la tua compagnia. Una lezione più di realismo che di cinismo, anche questa non inutile, credo, nella contingenza in cui ci ritroviamo di questi tempi. Gianni, resta ancora un attimo con noi, dopo aver dato la linea alla regia torniamo insieme, parliamo di un film che è ancora nelle sale, molto importante, che è Margin Call. E tu chi sei? La noia. E cosa ci fai nella mia valigia? Vengo in Trentino con voi. Ma figurati. No, sto con te quando tuo marito va per funghi. Grazie, ma io mi rilasso alle terme. E se piove? Marte Castello del Buon Consiglio, ok? Parti per il Trentino e lascia a casa la noia. Goditi un mondo di sport, natura e cultura nel cuore delle Dolomiti. Scopri la tua vacanza ideale su visittrentino.it. Ma mi porti un ricordino? Un Trento Doc, così ci brindi con gli amici. Io non ne ho di amici. Se hai pensato di dover fare dei passi indietro, torna a guardare avanti. Con un anticipo di 5.800 euro puoi avere la gamma classe C da 325 euro al mese con Drive Pass Leasing, assicurazione incendio e furto e manutenzione completa inclusi, e dopo due anni sei libero di restituirla. TAN 6,99, TAE GOT 58, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services Italia. Offerta soggetta a restrizioni e disponibilità limitata per contratti fino al 30 giugno. Info mercedes-benz.it. Non trovi un ristorante con sala TV e la partita sta per iniziare? Tadan! Questo è il momento di 89-24-24. Sì, guardi, lì vicino c'è un ristorante con Pay TV. Semplice, comodo, veloce. Info e costi 89-24-24.it. Cerchi un prezzo impossibile? Il vero sottocosto? Expert ti dà il sottocosto! Come il TV 47 pollici LED Philips. Smart TV per collegarsi a internet. 3D con due occhiali in dotazione. Che costa solo 799 euro. Expert. Gli esperti siamo noi! Offerta valida dal 31 maggio al 9 giugno 2012 nei punti vendita Expert aderenti. Un 47 pollici LED Philips a 799 euro. Formidabile! Precarietà, disoccupazione, assenza di prospettive e migrazione rendono i giovani l'anello debole della crisi. L'Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste, accanto ai progetti culturali e di solidarietà in Italia e all'estero, si impegna a sostenere iniziative a favore dei giovani. Investiamo sui giovani, sosteniamo i loro progetti e apriamoci al futuro. 8 per 1000 ai Valdesi, 100% alla solidarietà e alla cultura. Campagna 8 per 1000 delle Chiese Valdesi e Metodiste. www.8per1000valdese.org. Che cosa si direbbero Victor Hugo e Umberto Eco se si incontrassero per un caffè? Il Sole 24 Ore presenta Caffè Letterario, un'esclusiva collana in 25 DVD in cui i grandi scrittori di oggi raccontano quelli di ieri. In edicola con Il Sole 24 Ore. La rosa purpurea. Se siete ancora qui c'è un motivo. Molti vostri colleghi sono stati mandati via. Per sempre. Erano dipendenti in gamba, efficienti, ma voi lo siete di più. Lavoravo su una cosa, ma non sono riuscito a finirla. Dagli un'occhiata. E sta attento. Dovete tornare qui subito. Che succede? Guarda qua. Quando tutto questo verrà fuori farà un botto. È grosso. Quanto grosso? Ci sono 8 trilioni di dollari di cartaccia in giro per il mondo che si basano su quell'equazione. La formula non serve a niente. Quanto ci vorrebbe a ripulire i nostri libri contabili? Che cosa? Ci sono 3 modi per andare avanti in questo campo. Essere i primi, essere i più furbi o truffare. Non vorrai fare quello che stai pensando. Sam, sei con me o no? Stai vendendo qualcosa che sai che non vale niente. Ho deciso, Sam. Se lo fai, ucciderai il mercato. Vendiamo ad acquirenti consenzienti. Semplicemente per riuscire a sopravvivere. Ricordatevi questo giorno. Ricordatevelo bene. Eh beh, insomma, che dire, abbiamo voluto aprire la nostra terza parte della Rosa Purpurea ancora in collegamento qui dal Festival Economia di Trieste con Margin Call, di Trento, scusate, ho sbagliato città, non me ne vogliate, assolutamente di Trento, meno male che qui la rapida reazione dello staff qui della nostra regia ci ha messo subito sull'avviso, Festival Economia di Trento. Ci facevano studiare a scuola Trento e Trieste, chissà perché c'è stata questa cosa. Assolutamente, qui a Trento, Festival Economia, puntata speciale dedicata a cinema e economia della Rosa Purpurea. Margin Call, un film che potete vedere in sala, e questa è anche una scelta voluta perché è uno dei film forse più belli che hanno relazione con l'alta finanza, con l'economia, con la crisi corrente di questi ultimi anni. Ed è un film che, come dire, conferma due piccoli assunti, se volete, di quelli che abbiamo enunciato in apertura di trasmissione, ovvero che da una parte il pathos delle grandi vicende economiche e finanziarie si presta a essere raccontato, a essere sceneggiato, ha i ritmi della sceneggiatura, e infatti in questo caso è quello che succede. Pensate, Margin Call si svolge tutto in una notte, dal momento in cui uno staff di un'azienda viene praticamente licenziato, dimezzato, a quando questa chiavetta lasciata in mano con un progetto aperto dal capo ufficio a uno dei suoi rampolli si trasforma in un atto d'accusa, dietro il quale molti hanno poi voluto vedere la crisi della Lehman Brothers, insomma l'origine della grande crisi che ci portiamo dietro. Dall'altra dimostra anche che gli attori contano, sarà una sottolineatura banale, ma insomma a volte tendiamo a dimenticarcelo. Qui ci sono Kevin Spacey, Jeremy Irons, su tutti, insieme a Zachary Quinto, Paul Bettany, Demi Moore, eccetera, Stanley Tucci, ma dico soprattutto Kevin Spacey e Jeremy Irons, protagonisti di un paio di scene testa a testa in cui respiri proprio l'atmosfera della grande recitazione dei grandi personaggi davanti alla macchina da presa. Gianni, con questi ingredienti il film, diciamo così, già è sulla buona strada. Sì, posso aggiungere un terzo assunto, quelli che tu indicavi, che condivido totalmente. Cioè il fatto che io non sono un economista, sono un dilettante dell'economia come tanti di noi, e credo di aver capito su quello che sta succedendo questi mesi nel mondo dell'economia e dell'alta finanza più vedendo questo film che non leggendo come dire, decine e decine di articoli o vedendo decine e decine di film di servizi di televisione, perché un film, quando è ben fatto, ha dalla sua una dimensione che gli altri media non hanno: la narratività, il racconto. C'è un pathos, ma c'è anche una suspense, vedendo un film come Margin Call, che ti tiene lì avvinto. Poi alla fine non hai capito, io non ho ancora capito benissimo cosa indichi il titolo stesso del film, anche se una qualche idea me la sono fatta. Però credo di aver capito bene alcuni meccanismi che funzionano e che determinano, come dire, il sistema di relazioni, di scelte, di decisioni dell'alta finanza. E un film come questo, che dicevi bene tu, insomma, abbastanza palesemente si rifà alla grande crisi di Lehman Brothers, è un film che ti fa capire come a un certo punto alcuni dei dell'alta finanza, perché tali sono rappresentati nel film, lo dicono anche con disprezzo quando guardano giù la gente che vive a livello del suolo, la gente comune che non capisce quello che loro stanno decidendo, e questi dei dell'alta finanza decidono, per mantenere il loro statuto semidivino, di mettere sul mercato dei titoli tossici, avendo piena consapevolezza della tossicità infettiva di quello che stanno mettendo sul mercato. Come dire, sanno di avere delle mele marce e le passano ad altri che incauti le acquistano. E tutto questo raccontato con un pathos, una forza, un'energia, un ritmo, una suspense che ti inchioda e che ti aiuta, se non altro, a capire meglio, ad avere contezza di come funzionano certi meccanismi. Ripeto, con una potenza che altri mezzi di comunicazione di massa, secondo me, non hanno. Assolutamente non hanno. Grazie Gianni. Ricordiamo, autore insieme a Severino Salvemini, di Il manager al buio, quando il cinema racconta l'economia. Grazie, perché con questi esempi abbiamo dato l'idea di come il cinema abbia saputo raccontare le varie sfaccettature del tema economico del momento a cavallo degli anni. Grazie ancora Gianni. Grazie a tutti e buona giornata a Trento. E allora, eccoci qui, cambio di ospite. Se con Gianni Canova abbiamo voluto affrontare appunto il tema del come il cinema ha raccontato l'economia e la finanza, lo abbiamo fatto ovviamente con ristrettezze di tempo, prendendo dei film campione, ma come abbiamo detto nel libro di Gianni ce ne sono un'ottantina di schede e una cinquantina particolarmente in rilievo. Adesso vogliamo, nel secondo tempo di questa puntata speciale della Rosa Purpurea qui da Trento, dal Festival dell'Economia, vogliamo vedere le cose sotto un altro aspetto, da un altro punto di vista, quello del manager, perché Marco Lombardi, che è un collega critico cinematografico, ma che ha avuto anche un passato importante da formatore, da direttore del personale, quindi un passato aziendale, ha partecipato alla scrittura di un libro che si chiama Il grande libro del cinema per manager, 50 film letti in chiave d'impresa, nella quale proprio la figura del manager, o quello che può servire nel bagaglio strutturale e culturale di un manager, ad essere attinto proprio dai film. Non è vero, Marco? Ebbene sì, Franco D'Assisti, buongiorno a tutti. Ciao, sì, ciao, grazie di essere qui con noi. Appunto, c'è un punto di vista particolare in questa scelta che voi avete fatto in questo libro. Sì, adesso voi avete esaurito la parte seria e passiamo alla parte meno seria, perché in questo libro in effetti noi analizziamo 50 film, e questo libro Dietas con la cura di Francesco Bogliari, appunto il curatore dell'opera. Il punto di vista è spesso e volentieri quello simbolico e quello ironico, ovvero sia, noi non abbiamo analizzato Borsi, ci sono anche alcuni film che trattano esplicitamente tematiche aziendali, però soprattutto film che hanno delle situazioni che si possono richiamare, che possono portare a delle tematiche aziendali. Tu dicevi bene prima, io sono un manager pentito, ricordo che noi ci siamo conosciuti qualche secolo fa nei festival, io allora ero direttore personale, mi prendevo le settimane di ferie per andare ai festival cinematografici. Le cose sono cambiate, però ho mantenuto sempre questo cordone ombelicale con il mondo dell'azienda, tant'è che sul giornale dell'Associazione Italiana dei Direttori Personale, che si chiama Direzione del Personale, tengo una rubrica che non a caso si chiama L'azienda è tutto un film, perché come diceva prima Gianni, in effetti c'è un nesso molto forte non solo del cinema che racconta tematiche lavorative, ma le stesse situazioni aziendali spesso e volentieri sono dei film, sono delle situazioni talmente estreme, se le si epura dalla parte a volte drammatica, che sembrano veramente dei giochi tra bambini, ecco. Quindi, prendendo da questo punto di vista in maniera meno seria, ma forse alla fine diventa anche più seria, tutto quello che succede all'interno di un'azienda, ecco che insomma, spiegato il motivo per cui abbiamo preso dei film, li abbiamo rivoltati, insomma, e tra poco vedremo. E diamo dei consigli ai manager, esatto, diamo dei consigli ai manager proprio partendo da questi film rivoltati, tra l'altro proprio nell'insegnamento delle discipline economiche e della figura del manager, l'utilizzo dello strumento cinema è sempre più diffuso anche a livelli accademici e universitari, proprio perché c'è probabilmente molto da imparare da atti simbolici, stilizzati come quelli che il cinema riesce a fornire. Allora cominciamo subito, prima di andare a sentire come vanno le cose sulle strade, da Babel, perché abbiamo voluto con Marco segnalarla come primo film. Babel preso come film come dire paradigmatico del tema della complessità, e insomma, se non è quello della complessità, è il tema principe di questo momento economico e del problem solving, quindi anche di come uscire dalla complessità. Sentiamo la clip, poi Marco Lombardi. Il Signore disse: andiamo a porre disordine nel loro idioma affinché l'uno non possa capire il linguaggio dell'altro. Devo chiamare l'ambasciata. Dove si trova? Dove siamo? Non lo so, io non lo so. L'esperimento di una turista americana ha provocato un incidente internazionale. La notizia diffusa dai telegiornali è sotto gli occhi di tutti. Si sta facendo il possibile. Richard e i bambini, voglio parlare con loro. È un'emergenza, devi rinunciare al matrimonio di tuo figlio. Ma non posso lasciare i bambini a qualcuno. Senti, è una cosa grave, capito? Dove ve ne andate? In Messico. Allora chi sono? Sono mia responsabilità. Signore, le devo chiedere di scendere dalla macchina. Perché? Scenda dalla macchina, pare che le ho detto di scendere dalla macchina. Faccia quello che le dico! Scenda dalla macchina! Ecco, quello che succede fra tante esplosioni quando le lingue non si parlano, il problema è complesso, Marco. Sì, noi viviamo nell'era della globalizzazione, si cerca disperatamente di appiattire tutto anche a livello proprio linguistico e quindi culturale, quindi far coesistere realtà all'interno di una grande multinazionale che provengono da situazioni culturali, anche culturali di imprese diverse, però più si cerca di uniformare, più da qualche parte la complessità e il disordine, come si diceva all'inizio della clip, viene fuori, e più si cerca di risolverlo a suon di schemi, teorie, formazione, eccetera, eccetera, e più forse il disordine lo si riesce a superare con un altro tipo di disordine, ecco, cioè riuscire a inglobarlo nella razionalità non sempre è la strada migliore, però questa appunto è la situazione, e ogni manager si trova anche nel proprio piccolo ogni giorno a dover gestire miliardi di cose che sono magari le problematiche proprio del vicino di scrivania, dei collaboratori, del mercato che non si riesce a capire in quale direzione si stia muovendo, della concorrenza, dei consumatori o presunti tali che cambiano le loro possibilità di acquisto, i loro gusti, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono una infinità di input che determinano appunto questa complessità che Babel esprime splendidamente con queste tre storie che si incrociano in maniera perversa in tre angoli diversi del mondo. Allora, a questo punto sentiamo come vanno le cose sulle strade, poi torniamo e parliamo di altri due o tre film veramente esemplificativi e anche molto istruttivi per la figura del manager, fra poco. Strade in diretta. Sulla 14 Adriatica in Puglia, rallentamenti tra Foggia e Cerignola in direzione di Bari. L'autostrada è stata appena riaperta, la chiusura si era resa necessaria a causa di un incendio divampato in prossimità delle corsie di marcia. Sempre in A14, traffico di rientro al termine del weekend, si resta tratti in coda verso Bologna tra Faenza e Imola. A Milano chiusure e deviazioni fino a stasera in occasione della visita del Papa sul tratto urbano della A4, chiuse le uscite di Sesto San Giovanni e Cormano. Chiuse le uscite per Monza e Nova Milanese sulla tangenziale nord. Noi torniamo tra mezz'ora. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea qui dal Festival dell'Economia di Trento, l'ultima parte del nostro programma. Stiamo parlando con Marco Lombardi, che ci sta un po' facendo da cicerone, lui che ha scritto il grande libro del cinema per manager. A quali sono le scene, i momenti, i film che hanno maggiormente, come dire, anche di film non di carattere economico, che hanno maggiormente un impatto, una loro potenzialità istruttiva proprio per la figura del manager. Abbiamo sentito di Babel, Assassino sull'Oriente Express, identificativo del lavoro di gruppo, Marco. Sì, questo naturalmente è la traduzione ironica, come ti dicevo prima, di questo manuale serio ma anche appunto divertito. Beh, insomma, in questo film il progetto di un omicidio si realizza attraverso un contributo di una coltellata da parte di ciascun viaggiatore su questo treno che si blocca in mezzo alla neve. E evidentemente, insomma, non è questo quello che deve succedere in azienda, anche se poi il termine accoltellare in azienda purtroppo si usa spesso, perché ci sono vari accoltellamenti anche tra vicini di scrivania e colleghi. Qui l'idea è quella di, insomma, cercare di prendere il toro per le corna, accoltellare magari situazioni difficili che possono essere il mercato, che possono essere situazioni interne in azienda, che possono essere complessità che non si riescono a sciogliere, con un contributo aggressivo, ma nel senso buono, da parte di ciascun componente del gruppo. Quindi questo è un film che dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, è una esemplificazione di un perfetto team building, problem solving, affrontare tutti insieme, distruggere tutti insieme e risolvere tutti insieme un problema comune. Oliver! Barbara! Gavin! Gavin! Gavin, prendi la scala! Ok! Beh, lo sapevo che finiva tutto bene. Ce la caveremo, cara. Vedi quei due cavi? Sì. Ognuno di loro può reggere almeno 100 kg. E questi sono Kathleen Turner e Michael Douglas su un lampadario, ve le ricorderete, nella Guerra dei Roses, straordinaria commedia di Danny DeVito, con anche Danny DeVito tra gli altri. E allora Marco Lombardi ci dice perché, e beh, è abbastanza identificabile, individuabile però il concetto, la Guerra dei Roses sia identificativa, esplicativa del tema delle cordate aziendali. Perché in azienda spesso e volentieri si utilizza una gran parte delle proprie energie emotive e anche proprio di tempo, non nel perseguire obiettivi comuni, ma nel impedire agli altri di perseguirli, quindi nel creare questi conflitti interni, che come tutti i conflitti esasperati sono anche veramente, prima citavo un ambito infantile adolescenziale, quando due bambini litigano spesso e volentieri sono divertenti, quando lo fanno due adulti lo sono ancora di più, e quando lo fanno in azienda veramente sembra che stiano anche loro sul lampadario, anche se nelle aziende ci sono i neon, quindi è un po' difficile stare abbarbicati a quei lampadari, però simbolicamente lo sono. E quindi questo film, secondo me, visto che è, come si diceva prima, il cinema è uno specchio in generale, lo è anche per chi lavora in azienda e anche per i manager, secondo me vedendosi specchiati in quella situazione forse si ritorna in azienda e ci si può rendere conto di quante ridicole siano determinate situazioni conflittuali interne e quanto sia meglio, più proficuo, più produttivo e più divertente, insomma, cercare di mettere da parte determinati arrivismi personali e invece cercare di lavorare tutti insieme per raggiungere obiettivi comuni. Invece nel 2005 Robert Guédiguian firma un affresco davvero molto molto riuscito, quello degli ultimi giorni di vita, degli ultimi periodi, tempi di vita di un uomo che ha fatto la storia della Francia e dell'Europa come François Mitterrand, e del suo rapporto con un giovane che raccoglie sì le sue testimonianze per scrivere un libro intervista, ma in realtà raccoglie l'esperienza, che è un altro valore fondamentale in azienda. E allora andiamo a sentire la clip. Vous verrez, Antoine, dans quelques années, ils feront comme si je n'avais jamais existé. Les Jospiniens, les Rocardiens. Pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent autant? Vous le savez, vous? Bon, c'est vrai, il a commencé à droite et il finira à gauche. Mais alors? La droite déteste qu'on la trahisse. S'ils me haïssent tant, c'est parce que je suis un traître. Je viens de chez eux, je les connais bien. Michel Bouquet, protagonista del film I panni di Mitterrand. Marco, abbiamo detto raccogliere l'esperienza, uno dei beni più preziosi e anche più facili a disperdersi all'interno di un'azienda. Sì, tutto questo avviene nelle aule di formazione, avviene in quello che si chiama il coaching, che è sempre più di moda negli ultimi anni, che poi banalmente è semplicemente un travaso di esperienza da qualcuno che ha qualcosa in più nel proprio bagaglio, nella propria saccoccia della memoria, e qualcuno che ne ha di meno. Ma la cosa che succede sempre nelle aule di formazione, nel coaching, che poco si dice e che viene secondo me mirabilmente a galla in questo bellissimo film, è poi che il rapporto è biunivoco. Sicuramente c'è un primo flusso, che è quello di chi, appunto, come nel caso del film di Mitterrand, che travasa in questo giovane ingenuo della vita tutta anche la sua disillusione verso la politica, tutte le cose realizzate, quelle non realizzate, la paura del domani, anche la paura della morte e non solo quella fisica. Però rispetto appunto a tutti questi punti interrogativi e queste situazioni problematiche, a me pare che Mitterrand apprenda anche molto da questo giovane. È quello che appunto succede in tutti i rapporti formativi, nel coaching, in azienda, e non dico che percentualmente sia un 50% da una parte e 50% dall'altra, però c'è sempre una biunivocità, come c'è del resto in tutti i rapporti umani, e questo film secondo me mette bene in evidenza questo aspetto, e secondo me potrebbe essere utile anche per chi fa formazione nell'approcciarsi a chi deve apprendere, a chi deve imparare, in maniera un po' più aperta, un po' più libera, e cercare appunto di fare in modo che il rapporto sia molto più ampio e non univoco. E invece, per raccontarvi il tema dei benefit aziendali, abbiamo raccolto questa clip di Lolita. Ah, deve vedere il giardino prima di andarsene. Deve proprio. I miei fiori vincono sempre dei premi. Tutti ne parlano in giro. Voilà. Le mie rose gialle. Il mio giardino. Mia figlia. Cara, abbassa per favore. Posso offrire una casa comoda, un giardino assolato, un'atmosfera tranquilla, le mie torte di ciliegie. Bene, ma non abbiamo parlato di quanto. Oh, beh, una cosa simbolica, diciamo, 200 al mese? Sì, direi che... Compresi i pasti e gli spuntini serali, sì. Eccetera. Sì, è molto ragionevole e molto carino. Ah, non potrebbe trovare niente di meglio a Ramsden. No, e quando le farebbe comodo che mi trasferissi? Anche adesso sarebbe sciocco che lei andasse in albergo. Le mie valigie sono nel tassi. Ah. Lei è una donna d'affari molto persuasiva, signora. Grazie. Qual è stato il fattore decisivo? Il mio giardino? Credo che siano state le sue torte di ciliegie. Beh, straordinario James Mason nel capolavoro di Stanley Kubrick del 62, Lolita. Quali sono state i benefit, appunto, che l'hanno convinta? Le torte di ciliegio e il giardino non erano né l'una né l'altra, Marco. No, la ciliegia c'era, ma aveva un'altra connotazione, un altro formato. Qui, insomma, lo spunto di Lolita è di nuovo ironico, come in Assassino sull'Orient Express, perché le aziende spesso e volentieri, per sedurre un manager, quindi ad accogliere, andare a lavorare in un'azienda piuttosto che in un'altra, fanno leva non solo sul job, quindi su un lavoro gratificante, sulle responsabilità, sulle possibilità di carriera, sulla retribuzione, ma su quelle piccole cose marginali che creano proprio una seduzione che però ha poi una vita breve, come succede in Lolita, che sono dei fuochi di paglia che poi magari, insomma, lasciano anche degli strascichi per quando uno poi lascia l'azienda, e sono dati dal il telefonino aziendale, l'auto aziendale, le polizze sanitarie, tutta una serie di altri facilitazioni, sconti, il circolo, eccetera eccetera, che in termini poi materiali economici valgono a volte molto meno delle retribuzioni, però sono quegli elementi, direi, un po' pruriginosi, proprio come in Lolita, che hanno un grandissimo effetto e che determinano poi la scelta di un manager, ovvero se vabbè, vado a lavorare lì perché magari mi danno un po' meno di soldi, però c'è quella macchina che è meravigliosa, quindi, certo. Quindi una qualità della vita che magari da solo uno non potrebbe pensare di raggiungere, oppure dovrebbe faticare per andarsi a comprare. Io devo chiudere, siamo arrivati proprio alla fine. Ringrazio Marco Lombardi che ci ha assistito anche per aver scritto il grande libro del cinema per manager. Ringrazio Carmelo Laroricella e Filippo Reggi in regia, rispettivamente a Milano e a Trento, Margherita Ine, Gian Gabriele Lombardo in assistenza. Un saluto da Franco D'Assisti, La Rosa da Purpurea torna sabato prossimo. Giorno c'è un'amica pronta a darvi un consiglio pratico per imparare a stare bene nel corpo e nella mente. È il Daily Lab di Essere e Benessere, il laboratorio quotidiano che con l'aiuto di esperti vi insegna a essere consapevoli delle scelte che ogni giorno ognuno di noi può fare per migliorarsi. Daily Lab, i consigli della salute, da lunedì a venerdì all'interno di Essere e Benessere e su radio24.it. In collaborazione con Natura. Nutrizione scientifica. Armonia Retard, per un sonno naturale che dura tutta la notte. Da Natura, in farmacia. Cerchi un prezzo impossibile? Il vero sottocosto? Experti dà il sottocosto! Come il TV 50 pollici plasma LG, mega contrasto, 600 Hz, che costa solo 499 euro. Expert. Gli esperti siamo noi! Offerta valida dal 31 maggio al 9 giugno 2012 nei punti vendita Expert aderenti. Un 50 pollici plasma LG a 499 euro! Formidabile! Ti bruciano gli occhi, sono rossi e irritati. I colliri omeopatici possono darti un pronto sollievo. La loro formula li rende adatti ad adulti e bambini, anche per un uso frequente. Sempre più medici e farmacisti scelgono i medicinali omeopatici. Ti bruciano gli occhi? Scegli anche tu Boiron. Laboratoire Boiron, leader mondiale dell'omeopatia, azienda familiare da oltre 80 anni. C'è spazio per tutto! Da oggi anche per 5 porte! Nuova Volkswagen Up, da oggi anche 5 porte. Abitabilità, sicurezza, tecnologia e tutta la qualità Volkswagen in soli 3,5 metri. E solo a giugno, la versione 5 porte non ti costa niente di più. Nuova Up, da 9.900 euro. Scoprila anche il 9 e 10 nelle concessionarie Volkswagen. Nuova Up, quando piccolo diventa grande. Offerte valide fino al 30 giugno. Info e dettagli su Volkswagen.it. Allora, dal suo curriculum vedo che lei ha un'ottima conoscenza delle energie rinnovabili. Sì, sì, certo. Ah. Eolico, sì. Fotovoltaico. Sì, però vedo anche che lei ha dimenticato di citare un'altra energia rinnovabile, forse la più importante. E cioè? L'entusiasmo! Per noi di GTF Suez l'entusiasmo è un'energia fondamentale. Solo così riusciamo a portare ogni giorno a casa vostra le soluzioni più moderne, più innovative e più avanzate. Vai su gdfsuez.it e scopri tutte le nostre offerte. GTF Suez, energie per te. Sei un'azienda e cerchi agenti di commercio? Agenti.it.